Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. È difficile trovare uno sport che, come lo skateboard, perché lo skateboard ormai è uno sport, riesca a dare un senso di assoluto mentre si cavalca l'aria in piena autonomia. E in realtà lo skate è ancora di più di uno sport, perché è una vera e propria cultura. Centinaia di migliaia di ragazzi hanno volteggiato per se stessi senza preoccuparsi di competere con altri. Non ci sono regole, non ci sono ragionamenti, non ci sono strategie, perché lo skater va per la sua strada, è indipendente, conta solo la sua energia e conta la sua fantasia. Forse è per questo che è così popolare tra i giovanissimi. Io stesso sono padre di un oggi 26enne che, quando aveva 9-10 anni, impazziva e passava le giornate sullo skateboard. Ci vuole forza, ci vuole della follia, ci vuole agilità, e si parla di una piccola asse di legno montata su 4 rotelle con la quale puoi veramente inventarti quotidianamente. Oggi vi voglio parlare di uno dei più grandi skater americani. Il suo nome è simbolo di questa cultura, è stato uno dei più bravi. La sua vita però è precipitata tante volte, ha avuto cadute e nuove opportunità, come proprio lo skateboard raffigura. Ha avuto tanti colpi d'ala. Il suo nome è Jay Adams. Alcuni ragazzi venivano tirati su a forza di latte e biscotti. Jay invece venne tirato su a surf e skateboard. Siamo a Venice, California, prima metà degli anni 70, c'è sempre il sole, lì fa caldo, la siccità ha prosciugato le riserve d'acqua, le piscine delle ville dei ricchi sono vuote, sono abbandonate e la gente ha lasciato la città, le giornate sono immobili, non c'è nessuno in giro, non ci sono rumori. Improvvisamente succede qualcosa, come qualcosa che sbatte contro una superficie. Nel giro di qualche minuto, 3, 4, 10 ragazzini entrano in una vasca vuota con lo skate. Inizia una danza scatenata. E i ragazzi con le loro tavole sembrano voler disegnare delle traiettorie mai provate prima sulla superficie turchese della piscina, saltano, si inseguono, curvano quando pare non ci sia più neanche un millimetro disponibile per farlo, arrivano al limite estremo della vasca, sembrano spiccare il volo e sembra che l'aria voglia sostenerli il più possibile, contravvenendo alle sue stesse leggi. Poi, quando già te li immagini spiaccicati al suolo, i ragazzini con una beffarda risata rientrano nei ranghi del cemento, si danno una spinta verso la sponda opposta. La prima volta che ho fatto skate in una piscina avevo circa 13 anni. È stato davvero pauroso. Già solo essere in grado di andare intorno alla vasca era difficile. È stato spaventoso, eccitante, ma anche una cosa totalmente nuova. Una vera figata. I ragazzini sono biondi, sono abbronzati, hanno solo magliette, pantaloncini o magari un costume sbiadito dal sole, dalla salsedine. Ai piedi hanno scarpe da ginnastica rovinate dalle continue botte prese contro la tavola. Vengono tutti da una zona malfamata vicino a Venice, che è stata ribattezzata Dogtown. Siamo a ovest di Los Angeles. Tra questi ce n'è uno che sembra più bravo degli altri, sembra divertirsi più di tutti, è spontaneo, è incurante del pericolo, ha un talento naturale. Il suo nome è quello del nostro protagonista, Jay Adams. Ho iniziato ad andare sullo skateboard nel 1965. Quindi, quando è iniziato il periodo di Dogtown, facevo skate già da 10 anni. Quando iniziai, c'erano ancora le ruote d'argilla e le pedane ce le facevamo da soli in casa. Quello che cercavamo di fare era copiare il surf. Tutto ciò che riguardava lo skateboard aveva a che fare con il surf. Si trattava solo di divertirsi e una maniera di navigare anche quando le onde erano di merda. Jay fa parte di un gruppo che si è formato spontaneamente attorno a un negozio di tavole da surf, Jeff Ho e Zephyr Shop a Dogtown, e saranno una quindicina, ognuno ha una sua storia mediamente disastrata, tutti hanno una passione in comune, il surf. Ma quando non ci sono le onde non si può fare surf. E quindi i ragazzi si sfogano andando su questo nuovo oggetto, lo skateboard, che in breve si fanno conoscere in tutta la zona per le loro prodezze. Finiscono per essere conosciuti appunto come gli Z-Boys, Z-Boys, dal nome Zephyr, il nome del negozio. Il migliore di loro si chiama Jay, Jay Adams, è nato a Santa Monica nel 61, il padre è sparito prima ancora che lui nascesse e quando lui ha 3 anni la madre inizia una relazione che durerà 14 anni con un uomo che lavora nel negozio di tavole da surf a Venice, si chiama Kent, e che diventa il vero padre di Jay. È lui che avvicina il ragazzo a questo sport. A 4 anni lui va già in surf, prima di arrivare in prima elementare è già famoso nelle spiagge lì attorno, però comincia a provare anche lo skate, che in fondo è come un surf in bicicletta, no? I miei primi ricordi sono tutti legati all'andare sullo skateboard. Quando ero piccolo rubavamo i tricicli e li trasformavamo completamente in delle biciclette molto basse e facevamo finta di essere dei ciclisti. Andavamo su quelle e poi sullo skateboard tutta l'estate. Avevo circa 7-8 anni. Il falco e il gabbiano. Le tavole da surf hanno una storia molto particolare, perché fino ai primi anni 70 sono pesanti, hanno le ruote in argilla, hanno rappresentato comunque un progresso rispetto alle rotelle dei pattini che fino agli anni 50 venivano semplicemente inchiodate alla tavola. Però nei primi anni 60 lo skateboard comincia ad avere un periodo di successo fino alla fine del decennio, poi cade di nuovo in disuso. Poi arriva il 1970 e un surfer che si chiama Frank Nesworthy progetta delle nuove ruote in uretano, che è una specie di resina molto resistente che garantisce maggiore aderenza al suolo. Insomma, è una vera e propria rivoluzione. I ragazzi che quando cavalcavano le onde con il surf erano abituati a piegarsi, a sfiorare l'acqua con le dita della mano, capiscono improvvisamente di poter fare le stesse giravolte, le stesse evoluzioni anche a terra con i loro skate. Le mie prime influenze per lo skateboarding furono i ragazzi del surf e in qualche modo questa fu la cosa che ci permise di cambiare il modo in cui la gente andava sullo skate. Fino a quel momento, più che di skateboard, si poteva parlare di longboarding. Si andava su queste lunghe tavole dove correvi e ci facevi giusto un po' di ginnastica sopra. Noi invece copiavamo i movimenti dei surfer del momento e adattammo quello che loro facevano sul mare agli skateboard. Insomma, per i ragazzi di Dogtown che passano ore e ore sulla spiaggia senza sapere bene come impiegare il tempo, gli skateboard sono una salvezza, una pacchia, e lui è quello che ci dà dentro più di tutti, insieme a 2 amici inseparabili, Tony Alva e Stacy Peralta, e quest'ultimo ricorda proprio bene come Jay fosse incontenibile. Non era il genere di ragazzino che riusciva a stare fermo, il tipo che restava tranquillo. Doveva sempre fare qualcosa, aveva il bisogno di alimentare il suo motore. Piano piano i ragazzini hanno bisogno di trovare nuovi territori per andare a fare skate e li trovano, prima i cortili delle vecchie scuole abbandonate, poi i docks che si allungano sul mare e cominciano a provare sulle piste di cemento gli stessi movimenti che hanno fatto ripetutamente sul mare, e anche sullo skate si possono fare gli stessi gesti, piegarsi per sfiorare il terreno, creare delle onde continue con le loro traiettorie. Il primo colpo d'ala nella vita di Jay Adams è rappresentato dai proprietari dello Zephyr Shop, si chiamano Jeff Hawes, Skip Engblom. Sono 2 tipi strani, che hanno girato il mondo facendo surf, fanno delle belle tavole da surf, trattano male i clienti, si siedono all'ombra di una tettoia con enormi bicchieri di vodka e di succhi tropicali, fumano marijuana, insomma sono gli idoli perfetti adatti per un gruppo di ragazzini. Jay e i suoi amici considerano il loro negozio come una seconda casa, e fanno qualche piccolo lavoretto e ottengono il permesso di stazionare lì. I proprietari del negozio stanno sponsorizzando già due squadre di surfer. In una di queste ci sono anche i tre amici, Jay, Tony e Stacy. E quando i ragazzi cominciano a fare delle magie con lo skate, Jeff O propone loro di sponsorizzare anche un team di skater. Nascono gli Zeta Boys. Zephyr, è stato davvero divertente perché eravamo solo dei bambini che volevano divertirsi. Abbiamo avuto la possibilità di cambiare il modo in cui le persone andavano sullo skateboard. Mettevamo le mani per terra e poi facevamo giri e scivoli e cazzate così. Ed era bello. Era fico perché avevo 16 anni e facevo un po' di soldi. Non tanti, ma abbastanza per pensare che ero uno skater professionista e potevo lasciare la scuola. Voleva dire tanto essere in un team del genere per dei ragazzi che non avevano grandi prospettive, che venivano da famiglie modeste, senza opportunità. Trovare qualcuno che aveva voglia di investire su di loro per fare una cosa così simpatica che a loro piaceva diventa una maniera per tirarli fuori dal degrado. Insomma, viene data anche a loro una possibilità. Quando hai 6 o 7 anni non pensi tanto a diventare professionista, ma solo a essere uno skater. Non pensi tanto al futuro, è ancora lontano. Poi quando ne hai 12 o 13 le cose sono più chiare. Sai quello che vuoi fare. E mi sono detto, voglio essere uno skater. E poi la vita, come sempre, comincia a metterti in fila. Quelli più bravi cominciano a prendere il sopravvento sugli altri. Il migliore è lui, è Jay. È quello con uno stile più fluido, naturale, è quello più coraggioso, ha l'abitudine di piegarsi così tanto da sfiorare l'asfalto con le mani. Insomma, nello skateboarding è un vero e proprio innovatore, non si ferma davanti a niente, ogni giorno sembra capace di nuove evoluzioni. E sentiamo il suo amico Tony Alva. That's why Jay's so great, is because nothing's ever the same before or since. Jay è il più grande perché è completamente diverso da quello che era prima e da quello che è stato dopo. Jay non si allena, Jay non rifà le stesse cose due volte, tre volte, non rifà le stesse cose neanche una volta. Per lui finisce quasi prima che accada. He's over before it happens. Il falco e il gabbiano. Siamo negli anni 70, siamo in California, stiamo parlando di skateboard, stiamo parlando di uno dei più grandi skater di tutti i tempi, uno che è diventato una leggenda sull'asfalto di tutta Los Angeles e di riflesso del mondo, Jay Adams. Adams e gli Z-Boys, Z-Boys, il gruppo di ragazzini, quelli che andavano in skateboard a Dogtown, il sobborgo di Los Angeles. Bene, quei ragazzini hanno rivoluzionato il modo di andare sulla tavola con le ruote, quello che era solo un hobby, e si sta trasformando in un nuovo modo di esprimersi, una forma di cultura della strada con caratteristiche, con i suoi simboli, una cultura che confina con i writers, insomma un tipo di proposta alternativa, in questo caso una proposta alternativa allo sport tradizionale. E poi ci sono i luoghi, i teatri, che spesso sono le piscine vuote. Sentiamo Stacy Peralta degli Zeta Boys. In the 70s, California experienced the worst drought on record. Negli anni 70 la California sperimentò una delle peggiori siccità che si ricordino, e il comune vietava di innaffiare i prati. Addirittura non ti permetteva di servire acqua nei ristoranti. E così successe che tutte le piscine del luogo erano a secco. Swimming pools, which are abundant in Southern California, were drying up. Come spesso accade, un evento negativo provoca anche cose positive. La siccità, in un certo senso, fu il movente che contribuì a cambiare definitivamente il volto dello skateboarding. Dopo decenni di lunghe piste da percorrere, quando lo skateboard sembrava una variante del pattinaggio, improvvisamente ci sono spazi ristretti, ma però con un sacco di curve, ci sono le piscine vuote, insomma ci sono delle strategie che vanno adottate per adattarsi a quelle superfici. Le prime volte magari loro stessi non sanno bene cosa fare, cadono, sbagliano, poi iniziano a trovare il ritmo, i loro trick, i trucchi trucchi. I trick sono più che un trucco, sono la figurazione, sarebbe nella ginnastica artistica, e loro così sanno cavarsela anche nei punti più difficili. Our goal was to get to the lip and to actually hit the lip of the pool, so il nostro obiettivo era arrivare al limite, anzi, di arrivare proprio al limite della piscina. Per noi era un territorio straniero, sia mentalmente che fisicamente. Ma per il fatto che eravamo surfisti, sapevamo quali movimenti si potessero fare, e solo che non pensavamo fossero possibili in quella situazione. E tutto questo produce delle vere e proprie prodezze, la nascita di quello che può essere definito, diciamo, lo skateboarding verticale. Jay e i suoi amici cominciano ad arrivare al bordo della piscina, a fare perno con una sola rotella, mentre le altre tre sono libere di volteggiare. Ciò permette ai ragazzi di girarsi su se stessi, di rilanciarsi verso il fondo della vasca. Il senso di potenza, di libertà è tale che per tutti loro trovare una nuova piscina per sperimentare altri trick diventa un'ossessione. Si organizzano in vere e proprie squadre in cerca di piscine abbandonate da colonizzare. Così gli skater si trasformano da semplici ragazzini in qualcosa di più, secondo l'artista Craig Stasek, che è un amico di Jeff Hoy, di Skip Engblom, è quello che diventa il fotografo ufficiale di quel movimento e di quel periodo. Per loro stessa natura, gli skaters sono dei guerriglieri urbani. Lo skater riutilizza tutti gli inutili oggetti della produzione tecnologica. Lo skater è un anarchico urbano che usa le strutture in maniera che gli architetti che le concepirono non si sarebbero mai potuti sognare. Ed è questa la rivoluzione. Il periodo è elettrizzante. Ci sono schiere di ragazzi che si muovono di piscina in piscina, in segreto, perché rischiano di essere denunciati per invasione di suolo privato. Nel giro di 2 ore rivoluzionano il posto, lo trasformano in un luogo di festa. Al grido c'è una nuova piscina, arrivano decine di ragazzi e di ragazze, c'è la musica, c'è l'alcol, c'è il divertimento, ma soprattutto c'è lo skateboard. E come a volte succede, quello che all'inizio sembra una cosa fantastica potrebbe correre il rischio di trasformarsi in una esperienza negativa. Nel giro di pochissimi anni la vita di questi ragazzi viene completamente ribaltata. Ormai sono degli eroi, hanno tanti fan che fanno la posta fuori dal Zephyr Shop per vederli passare, per seguirli, li seguono ovunque, cominciano le prime competizioni, arrivano i soldi degli sponsor, arrivano le feste, arrivano le ragazze. Jay Adams è tra quelli che risente di più di questi pericoli, forse perché è quello meno calcolatore, forse perché è il più genuino. Lui si fa trascinare in questo vortice di feste dove arriva la droga. Finanziariamente le cose non andavano bene. Sono sempre stato sfruttato dalla gente. Odiavo essere un professionista. Ho sempre odiato dover parlare dello skateboarding. Ho sempre pensato che tutto quello che aveva a che fare con il professionismo fosse una cazzata. Mi imbarazzava. Andare sullo skate è stata una cosa importante per me per un po', ma che poi è diventata imbarazzante. Mi veniva da dire: non sono io quello. Ed è andata di male in peggio. Ecco, la fine degli anni 70 e gli inizi degli 80, anche in California arriva la cultura punk, che in qualche modo si coniuga con lo skate, e molti sono affascinati da questa musica che ha in sé i germi dell'anarchia. Così magari si ascoltano un po' meno Crosby, Stills, Nash Young o addirittura neanche Jimi Hendrix. Arriva il punk, arrivano i Ramones, soprattutto negli Stati Uniti, e lui e Jay è tra quelli che rimangono affascinati dal punk. E il punk permette di manifestare l'aggressività che c'è dentro ognuno di noi. Spesso però questo è amplificato dalle droghe, e lui ne prende, soprattutto pasticche e cocaina, cioè è del ramo speed della tossicodipendenza. Poi cominciano ad arrivare i tatuaggi, il piercing, e l'aria del ragazzetto americano biondo e abbronzato sparisce. Adesso lui è circondato solo dall'oscurità. Ai tempi del punk per me c'era solo violenza. Per trascorrere una bella serata dovevo tornare a casa con almeno un occhio nero, lividi o tutto sanguinante. Erano i primi tempi e ho fatto un sacco di cose che non avrei dovuto fare. Nel periodo peggiore, io e Mike Muir, e un gruppo di ragazzi di Los Angeles abbiamo decisamente contribuito a dare una cattiva reputazione al punk rock. Oggi non credo che il punk sia per forza legato alla violenza. Non mi devo svegliare e odiare la gente tutto il giorno e qualsiasi altro tipo di musica. Era come se avessi subito un lavaggio del cervello nei primi anni Ottanta. Il periodo violento di Jay culmina quando nell'82 partecipa a una rissa con una coppia di gay che lui e i suoi amici insultano fuori da un locale. La rissa degenera, rimane uccisa una persona. Jay sostiene di essere andato via prima dell'omicidio. Comunque va in carcere per 6 mesi con l'accusa di aggressione aggravata. E poi gli anni passano, arrivano gli anni 90 e lui continua a girare il mondo grazie allo skate, agli sponsor, però non riesce a allontanarsi dal brutto giro, diciamo. E quando arriva il 92 le cose precipitano. Nel 1992 Jay Adams tocca il fondo e nello stesso anno muore l'amata madre per un cancro, muore la nonna e soprattutto viene ucciso suo fratello. E poi il padre naturale, quello che lui ancora sente ogni tanto, si suicida perché sa di avere un tumore. Insomma, troppe disgrazie tutte assieme, lo sarebbero per tutti. Lui che già vive un'esistenza che si muove sul filo del rasoio non regge, comincia a farsi di eroina. Quando provai l'eroina le cose iniziarono ad andare davvero male. C'erano le cheerleader che andavano con ragazzi che sembrava stessero morendo per l'AIDS. Le ragazze erano sieropositive e a me non importava. Davvero, non mi importava neanche se restavo vivo o morivo. La voce arriva così lontana è perché l'intervista è stata fatta dall'interfono di un carcere. Eh sì, perché lui, che ha 30 anni, con una vita che sembra già finita, continua ad andare in skate, ma senza più la gioia dei primi tempi. Non ci sono vasche per lui, ma solo fiumi di eroina. E alla fine degli anni 90 finisce appunto in galera nelle Hawaii per crimini legati allo spaccio. E questa volta si becca 2 anni e mezzo. Yeah, well, you're lucky if you make it to prison, because at least you didn't die. Sono stato fortunato ad andare in prigione, perché almeno non sono morto. Perché sono andato in overdose almeno 3 o 4 volte, quindi parlo per esperienza. Ma per fortuna sono stato benedetto e grazie a Dio sono qui che posso parlarne. E mentre Jay è in prigione, nel 2001 al Festival Sundance viene presentato il film documentario Dogtown and the Boys. La regia di Stacy Peralta, forse era quello più quadrato di quel gruppo di ragazzini che avevano cominciato volteggiando nelle piscine. Fuori campo c'è la voce di Sean Penn. Il film racconta con dei video e con molte interviste gli anni in cui lo skateboard cambiò. Ci sono molti interventi di Jay, la maggior parte sono solo in audio registrato dal carcere, però in qualche modo il film si rivela un aiuto concreto anche per lui, perché una volta fuori dalla prigione le luci dei riflettori si accendono ancora una volta, ottiene qualche altro buon contratto di sponsorizzazione, ma soprattutto, come lui ribadirà più volte, il carcere lo salva perché lo rimette in carreggiata, perché inizia a girare per le scuole, parla con i ragazzi dei pericoli della droga, è ossessionato dalla paura che altri ragazzi ripetano i suoi errori per emulazione. Insomma, è più facile portare un messaggio del genere se lo si fa un po' dalla parte dei ragazzi, parlando anche di skate. Nobody benefits from any drug use in skateboarding. Nello skateboarding nessuno ha vantaggi nel prendere qualsiasi tipo di droga. Non importa se si tratta di marijuana, di alcol. Con la marijuana vai sullo skate con la testa fra le nuvole. Con l'alcol hai i postumi della sbornia. Con la coca stai sempre a pensare che arrivi la polizia. E con l'eroina te ne stai solo a casa e dormi tutto il tempo in posizione fetale. Sleep. Put your knee on your forehead. Ecco, questa è una diagnosi terribile, lucidissima, che andrebbe messa nei libri di scuola, dalle scuole medie in avanti, l'analisi in tre parole di ogni tipo di droga. E intanto la vita di Jay continua alle Hawaii, ha una produzione di skateboard, continua ad andarci sullo skateboard, e sulla nuca ha un piccolo tatuaggio che dice 100% skateboarder for life. Non lasci lo skateboard perché sei troppo vecchio. Diventi vecchio se lasci lo skateboard. Questa è bella, vale anche per la musica, eh. Alle Hawaii lui si risposa, frequenta la chiesa, anche se dentro di lui batte ancora il cuore di un rivoluzionario, ma è proprio il cuore che lo tradisce nel 2014, il giorno di Ferragosto, ha un attacco di cuore a Puerto Escondido in Messico, muore a 53 anni. Il giorno della cerimonia funebre gli skaters della zona gli tributano tutti gli onori. Tony Alva e gli altri amici organizzano un'ultima sessione di skate in suo onore allo skate park di Venice. Stacy Peralta lo ricorda un'ultima volta. Lui avrebbe dovuto avere tutto. Jay si meritava tutto. E mi rende così triste che non sia andata così. Perché lui era il migliore di tutti. Non sempre le rivoluzioni devono essere grandiose, capitali, mondiali, devono cambiare la storia dell'uomo. Ci sono anche delle piccole rivoluzioni, brevi ma molto intense. E per tutti noi c'è una iconografia specifica riguardo ai veri rivoluzionari, perché ce li immaginiamo liberi, innovatori, radicali, coraggiosi, folli. Bene, Jay Adams, nella mente di tutti quelli che amano lo skate, incarna proprio quel principio, quel tipo di rivoluzionario. Lo è stato da quando non aveva ancora 15 anni. Ha cambiato il modo di andare sullo skate, ne ha fatto, e forse inconsapevolmente, uno strumento culturale, l'ha trasformato in uno stile di vita allegro e ribelle, senza limiti, senza competizione. Spero che andare sullo skate continui ad essere una cosa che i ragazzi ribelli faranno sempre e non la cosa che mamma e papà vogliono che tu faccia. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, che hanno volato in alto, magari grazie a un asse con quattro ruote sotto, perché lo skate è stato ed è qualcosa di molto importante per molti ragazzi, e ognuno nella sua vita può salire e andare anche a fare delle evoluzioni come Jay Adams, che purtroppo però da quello skate è caduto in maniera anche molto rumorosa e autolesionista. Se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite sul mio Facebook, sul mio Twitter, sui nostri social, e insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.